E dopo, diciamo, la dimensione dronica, rappresentata splendidamente, in maniera sicuramente anche molto penetrante, scura, profonda, da parte del progetto Mohammad, ve lo ricordo perché non è particolarmente conosciuto, ma sicuramente interessante, abbiamo ascoltato questo album del 2013 uscito per la Pan Records, Some Sacrifice, di Mohammad, appunto progetto di Ilios Nikos Veliotis, musicisti greci, mi viene sempre a dire grechi, ma va bene lo stesso, spero. E Mohammad appunto rappresenta anche quest'altra dimensione dell'abstruse music che abbiamo cercato di elaborare stasera all'interno di 451 Intersezione. L'astrattezza, l'astrusità di questi progetti che vengono ancora ripercorsi anche dal prossimo lavoro che andiamo a presentare. Rimaniamo dentro la dimensione dronica. Forse questo progetto è più etereo, più leggero nel senso buono della parola, meno scuro e meno profondo, quasi liberatorio per una dimensione appunto quasi di angeli che si librano in cielo. E il progetto se è Grouper che abbiamo anche in una puntata di qualche mese fa inserito all'interno di 451 Intersezioni, abbiamo fatto ascoltare l'ultimo lavoro Ruins del 2014, adesso invece andiamo a prendere un album precedente uscito per la Yellow Electric del 2012, Violet Replacement, ottimo lavoro appunto che si muove in questa dimensione eterea, molto molto affascinante, dimensione dronica, progetto costruito Grouper da questa musicista Liz Harris, musicista di Portland in Oregon, dunque statunitense. Ci spostiamo dunque dalla terra greca a quella statunitense, certo un bel salto tenendo conto delle condizioni attuali politiche, economiche e sociali della Grecia. Ci andiamo a sentire dunque anche il progetto di Grouper in questo album specifico Violet Replacement. Niente, entriamo dentro, caliamoci dentro questa dimensione dronica che può creare appunto quasi una sorta di induzione verso un sogno liberatorio, un sogno etereo che ci lanci verso una nottata nel senso creativo migliore possibile. Andiamoci intanto ad ascoltare e a immergere nel suono profondo ed etereo di Grouper dall'album, ripeto per la terza volta, Violet Replacement. Buon ascolto. Siamo rientrati in diretta dopo questo vero e proprio viaggio in un sogno quasi, elaborato splendidamente da Gruper, ricordo ancora l'album Violet Replacement 2012. E ormai siamo verso la chiusura della puntata di questa sera. Serata spero che vi abbia accompagnato piacevolmente, almeno in termini di stimoli nell'ascolto e anche da qualche viaggio che vi siete potuti fare. E a questo punto andiamo anche a presentare l'ultimo progetto che chiuderà questo percorso di Abstruse Music 10 di 451 intersezioni questa notte del giovedì 10 marzo, venerdì 11 marzo 2016. Andiamo a presentare un autore giovanissimo, nato nel 1990, ancora 25enne attualmente. Si tratta di Joshua Leary, lo pseudonimo, il progetto comunque che Joshua Leary ha voluto denominare è Evian Christ, musicista inglese, appunto giovanissimo, ha fatto uscire il suo primo album per la Triangle del 2012, poi sono usciti soltanto degli EP, ben tre EP fino al 2015, ancora nessun album nuovo, e dunque l'unico album ancora prodotto da questo giovanissimo autore è del 2012. E chiaramente abbiamo estrapolato una traccia di questo album intitolato Duga Free, lavoro che si muove sempre dentro una dimensione dronica, appunto molto molto astratta, molto particolare nello svolgimento sonoro, una caratteristica che molti autori dell'ambito elettronico, sia che si muovono, come abbiamo sentito nei primi due casi, in un'elettronica anche ritmata, legata a una certa techno, a una certa dubstep, fino ad arrivare anche ai lavori più squisitamente legati alla musica dronica, anche come abbiamo ascoltato in precedenza, soprattutto nel progetto Muhammad, con questi archi portati in una dimensione ciclica, ripetitiva, dronica, in una dimensione dunque anche con chiari riferimenti alla musica contemporanea, seppur riportata in un trattamento sonoro digitalizzato in termini elettronici. E poi abbiamo ascoltato quest'ultimo lavoro di Gruper, pienamente dentro una dimensione elettronica, rarefatta, astratta e appunto anche estremamente legata a una dimensione di leggerezza, nel senso appunto buono della parola, una sorta di levitazione sonora e anche dello stesso ascoltatore, oltre che dello stesso compositore. Ora entriamo invece in una dimensione più strettamente dronica, anche in parte ipnotica, dentro questo lavoro di Duga Free di Evian Christ. E chiuderemo così questa nostra prima parte, potremmo dire così, il primo capitolo di questo di quest'idea legata all'Abstruse Music 10, e sicuramente proporremo nel corso, almeno fino prima della fine della stagione radiofonica 2015-2016, sicuramente una seconda parte legata soprattutto ad autori recenti, dunque legata agli anni 10, dunque novità tutto sommato degli ultimi 3-4 anni dentro appunto questa tematica. Intanto chiudiamo così. Io vi voglio ricordare, perché è importante, dato che non l'ho ancora fatto, il nostro blog No Blog, dove potrete trovare le trasmissioni passate, presenti e future, sia di 451 intersezioni ma anche di 451 frammenti sonori, dentro appunto il nostro blog No Blog, 451frammentisonori.noblogs.org. dentro troverete ovviamente la lista dei progetti musicali e degli album inseriti nelle trasmissioni, più ovviamente informazioni varie, video, particolarità e soprattutto la nostra pagina dedicata alla raccolta dei materiali che ci potete mandare all'interno di 451 frammenti sonori, futuri rumori, progetti appunto indipendenti, autoprodotti, sperimentazioni legate all'avanguardia, alla ricerca sonora di autori che si muovono nell'underground italiano, ma anche ovviamente europeo ed extraeuropeo. E fino ad ora questa stagione all'interno di 451 frammenti sonori, il mercoledì dalle 23 all'una, sono stati proposti vari progetti anche molto interessanti da varie parti d'Europa. Intanto ci diciamo salutiamo a questo punto di questa nottata di ormai venerdì 11 marzo 2016 e chiaramente vi ricordo che rientreremo in onda in diretta sempre giovedì prossimo dalla mezzanotte circa, dunque ci aspettiamo la vostra presenza, anche se è impalpabile, è assolutamente indecifrabile, ma va bene così, rimaniamo nell'etere, in una dimensione sconosciuta, misteriosa, che sta anche dentro molto bene la trasmissione di stasera. Chiudiamo dunque con Duga Free, Evian Christ, e ovviamente buonanotte e buon ascolto con i programmi notturni di Radio Città Fujiko. Buonanotte da Elisio Scarpa e da 451 Frammenti Sonori. Intanto, Evian Christ, Duga Free.